tutto a riposo, dopo finito il trabacco, tutto a riposo, hai capito, tutto a riposo, a riprendere, non si sa quando esce. Ma lo avete finito l'anno? Cappa che abbiamo finito, abbiamo terminato. Ah, ecco, vabbè, ne uscirà qualche altro, no? O prima o poi ne c'è qualche altro. Speriamo, io spero che questa settimana si riesca a risolvere qualcosa, a iniziare a qualcos'altro, capito? Speriamo bene. Speriamo bene. Ora sai che sta arrivando, 9.30 stai arrivando, 9.30? Ja, 9.30 sì, Giuggi, come mai? Cosa vuoi che ti dica? Sta arrivando così forte, vuol dire che non c'è QRM, quando non c'è QRM io sai che il giocattolino riscalda di più. Che è questa? Ah, non è. Arrivava sempre 9.18, 9.25, ma un massimo, però oggi sei 9.30, è bella piena quella radio, Ti piace come esco? Ora, 1, 2, 3, prova, controllo. Va benissimo la radio, ottima. Giovanni, che andato oggi? Via, oggi, no, tutto casalingo oggi. Cappa, il presidente si è titolare oggi? Sì, stamattina, ho visto anche il verticale, ci abbiamo preso il brasiliano insieme a lui. A casa sua però, intendiamo, perché lui non esce. Questi che mi ha invitato in casa e sono andato a prendermelo. Non pensavo che ce ne trova anche lui adesso a fare un piccolo discorsetto, così a parlare con i vecchi amici. Che può darsi pure, ma lui la domenica sera è difficile. Lui è sportivo, è molto sportivo, per cui è esentato, sta guardando la televisione qualche cosa, qualche partita, è difficile la domenica sera che entri, capito? Può capitare anche che possa anche entrare, ma sarà difficile la domenica sera, capito? E adesso senta noi, è dentro veloce adesso Mario. Sarà difficile, vabbè, si entra, gli ha acceso l'apparecchio. Allora, sono qua io, sempre acceso l'apparecchio, ti puoi immaginare. Senta, la chiama e già lo sento. Quella capa ce l'ha sentita, no? Giovanni? No, oggi no. Anche mi doveva dare una risposta di una questione, ma non l'ho visto per niente, non l'ho sentita nemmeno. Nulla oggi, sarà indaffarato. No, perché mi doveva telefonare il cellulare, ma per vedere se avevo fatto quella questione là di quell'altro apparato che gli ho dato, se gli ha fatto, che dovevo prenderli, hai capito? Dunque, non so se l'ha fatto, non so se l'ha fatto. Ecco, avanti il brinco. Buonasera, dai, Massimiliano Bulldozer da questa, buonasera a tutti. Massimiliano, da questa parte Leoncino e poi c'è Gio Maria. Positivo, dai, ciao Gio Maria, anche a te, buonasera. Ben sentito, la parola lea. Ok, buonasera Massimiliano. È ben entrato. E così via, ma... Quella chiacca di tira, tanto non manca il tempo, se no ci annoiamo troppo e ci viene il sonno. C'ha ragione. Ascolta Maria, sto usando un president, un grant, lo sto provando che era un annetto spento, cosa sembra di radio, di segnale, com'è? Va bene? La radio è buonissima, perfetta, perché è 9.25 di Santiago, la radio è buonissima. Sì, ora un microfono palmare Cobra, È un president, basta. Mi sto accorgendo che ha molti picchi positivi. Sta andando dai 4 watt ai 9 modulati, là. Picchi che sono positivi? No, è buonissima la radio. Ma guarda, anche Santiago, se c'è anche la tua, va benissimo. È più bene così, cosa vogliamo? Vabbè, era per un po' di tempo che l'aspetta, capito? Quindi ho detto adesso la provo, vedo se funziona ancora. Funziona, funziona, come funziona? Già funziona. E a te come ti arriva Leoncini? Non arriva a fondo scala, 9.30, 9.30 con la radio di 5. Positivo, io il segnale non ve lo posso dare perché qua vedo che lo smitter quando modulo io sale, quando modulate voi, allora specialmente quando modula Gian Maria, Santiago sì, ma comunque sicuramente da regolare, da. Ehi Santiago, sai com'è? Dovrebbe essere più in alto coso Leoncino di me, e dovresti arrivare infatti più forte da lui. Comprende Leoncino? Scappa che arriva più forte, lui ma arriva qua, ma arriva a fondo scala, ma è dunque 9.30 con la radio 5, capito? C'è la zona di Bulli, Bulldoze, ma arriva a fondo scala. Io non sono nella zona della Bulli, io sono a San Giovanni, capito? C'è anche Gigetto staccato qua, San Giovanni, comunque sta arrivando abbastanza forte, Bulldo. È positivo, vediamo un po'. Gian Maria, vedi un po' se ha cambiato ancora così il segnale. Ecco, fai la compassaggio di prima. Allora, così guarda, c'è lui attaccato. Questo passaggio così è staccato, vedi un po'. Si nota, Si nota, sei 9.20, 9.25 è attaccato, 9.20 distaccato, va benissimo, La radio cambia però, vero? È più forte come prima, giusto? Beh, adesso è più chiara, molto chiara adesso, mentre quando è attaccato appena più grossa rimane, dai. Dai, al limite satura un pochino, vero? Una poca roba, dai, però va benissimo. Sì, va, allora vuol dire che va bene. Eia, hai capito la giovane come scorso, e adesso sperando che la fortuna ci assista e sperando la prossima settimana di iniziare nuovamente lì dalla zona di Sant'Orsola per fare nuovamente quella questione, e dunque speriamo che sia positivo. Almeno un po' di giornatine ce le facciamo, capito? Piano piano. Sì, bisogna andare, bisogna cercare e chiedere. Bisogna avere facce, bisogna andare da uno all'altro e qualche cosa dovrebbe uscire. E purtroppo è così, perché si aspetta l'ufficio collocamento, nessuno mai, bisogna andare, cercare tramite anche gli amici, capito? Chiedere sempre, in mancanza di protezione, anche di quella maniera si può andare, capito? Beh, giustamente, tanto me, arrivato a un certo punto, e sono solo gli amici che ti fanno il favore, se c'è qualcosa, ti guarda che c'è quel posto di lavoro, per dire, un paio di giornate, e perché no, non mi sembra bene, almeno esco a piano pulare, hai capito? Bisogna darsi da fare, sennò è un macello, è un macello, riprendi Massimiliano. Ma se voglio dominare state parlando di lavoro. Per forza, io anch'io, è a zonzo, e sai com'è, uno si aspetta un piccolo locamento, se lo fa passi e si va a fare, è un macello, Bisogna cercare anche tramite gli amici, la chiede, purtroppo così, se vuoi avere un qualcosa devi girare, cercare di fare faccia, ecco. Proprio così, è il mondo oggi che non va faccia, non va culo. ragazzi, si trova io un martello, per cui ne ho ucciso altri da fare, e a sei giovani tue, per cui, ma io grazie a Dio ho avuto sempre la fortuna, non racconto mio, o racconto degli altri, già ho sempre fatto, però so che ce ne sono parecchi, sì, di queste persone così a mondo, e lui ha per cattare, non ce l'è che è tutto bloccato, è tutto, per cui se non si sblocca è un casotto per i frutti per tutti, Purtroppo. Purtroppo sto aspettando anche che dia l'attenzione per questo cantiere che c'è di fronte a casa, anche lì siamo fermi, abbiamo iniziato i lavori, però ci hanno bloccate perché hanno sbagliato il bug e dunque siamo fermi, stiamo sempre combattendo. Adesso eravamo scorso, eravamo in tribunale e adesso abbiamo vinto la causa sperando che si decida qualcosa per farci iniziare, capito, dall'altro mese, speriamo. Che c'è, scusa, è venuta gente, ha ripreso fra un quarto d'ora circa, dai, buon proseguimento, dai, 21:17 già chiamo, ok, riprendi Massimiliano. Positivo, allora, ciao Gio Maria, buon proseguo di giornata, ci sentiamo, ciao ciao ciao. Ci. Poi? Per il saluto. Ciao no, Giovanni, ci sentiamo più tardi se coincide, dai, io dai. E beh, se no, buona carica, buon tutto e a centinaia da presto, dai. Avanti, Buldo. È positivo, là. Che lavoro stanno facendo lì? Lì dove sei tu? È un cantiere, dovremmo fare delle palazzine, capito, delle appartamenti, capito, dunque, però siamo in alto mare, tutto bloccato, perché hanno sbagliato il PUC, e dunque siamo via, ancora per via legale, cazzo, ancora non è uscito niente. Il mese scorso c'eravamo in processo, però siamo andati e abbiamo vinto la causa, sperando che questo si decida di via libera per iniziare a lavorare, capito? È positivo, è un macello questo lavoro. Non ce n'è e non te ne fanno fare, il discorso è quello, capito? Non ce n'è lavoro, è quello che ti vuoi far fare, che devi fare, non te ne fanno fare perché vengono a romperti le scatole. Senza accordo non può iniziare, perché poi c'è il rischio che vengono i controlli e ti mettono tutto quanto sotto sequestro, capito? Già c'è ragione, da, così in nero è un problema. Yeah. E voi, tutto bene? Ci andiamo avanti, Leon C, cosa devi fare? Purtroppo, e cosa vuoi fare? Ognuno il lavoro che ce l'ha, lo tiene bene stretto, poco a poco, però a fine mese già riesci a campare, capito? Quello è l'importanza, che a fine mese qualcosa, qualche soldino lo porta a casa, se no, siamo veramente molto male. Io ci stringere i denti, abbassare la testa, così si fa al giorno luce. E purtroppo devi abbassare la testa e tirare avanti, anche se loro sbagliano, però devi stare zitto e cammellare, capito? E dunque, se no, non lo vuoi fare, ne cerco un altro operaio e tutto devi rimane a casa. È così, era. Dai, Leo C, se ci sei, ci sentiamo dopo, là. Un attimino di bianco per me, mi è arrivata gente. Ciao, ciao, Buldo, vai, ciao, ciao. Ci sentiamo più tardi, dai, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, sì, anche del massaggio cardiaco. È cambiata, diciamo, un po' la... Prima 15-2 si faceva quando ti davi il cambio, adesso lo fai anche quando sei da solo. Eia, adesso è cambiato 32. Cambiato. Beh, adesso sono 30 massaggi e 2 insufflazioni. La terza volta già che cambia. E a quando arrivare a 30? Oh, mamma mia cara. Lo sai, adesso da te che ti fa? Io non gli ho fatto lui massaggio. Adesso da te che ti fa massaggiarlo? Ui, ui, ui. Perché deve tenere le braccia irte, inginocchiate a fianco al paziente, a massaggiare su un posto duro. Se non c'è il posto duro, ce lo sai, c'è con la tavola. Ti ha fatto vedere, ci avete con la tavola sotto. Ma se adesso da te che ti fai, se non c'è cambio, ui, ui. Già lo so, già lo so, già. E... però, boh, non lo so. E... ma il discorso è che con questa cavolo di coso anche del 118, boh, non lo so io come ci si deve anche comportare. Quello è un punto interrogativo che io c'ho sempre. Io prima, quando c'era un paziente, se lo faceva un trasporto, si trasformava in urgenza, perché mi è già successo che di colpo gli mancava respiro, cose del genere, abbiamo dato ossigeno, eccetera, eccetera, si è trasformato in urgenza, attaccavo le sirene e partivo. Adesso devi chiedere autorizzazione a loro, o se è un casino. Eia, così a quanto stai a chiedere l'autorizzazione a loro, la seconda telefonata che fai non è a loro ma a qualche agenzia. Insomma, la prassi è quella. E adesso per dire, se tu trovi qualche paziente, incidenti, roba del genere, o sei sempre lì a fare un servizio, pallacanestro, cade uno, si può dire un gabbappari, come è successo a me, che non ci stavo dentro l'ambulanza, conterano alti. Non sapevo come fare, ci credi, Gesù, non chiedeva lo sportello, gli ho dovuto far piegare le gambe. Si sono sbattuti testa a pari, uscimi, due spingoli, siamo stati 2 metri e 10, 2 metri e 9, 2 metri e 10. Non mi stava di una palestra. Beh, e quel coltellaccio, non c'è più, quello per tagliarmi un pezzo. E per dire, ho dovuto chiamare, io l'ho portato direttamente all'ospedale, così adesso se succede adesso deve chiamare il 118 e chiedere se mandano loro l'ambulanza o se possiamo andare noi. E allora scusa, ma non fanno prima a togliere direttamente il servizio ambulanza? Giuseppe, ti devo spiegare tutto. La convenzione noi praticamente, essendo appartenendo solo alla protezione civile nazionale, non risultiamo in quella regionale. Cosa succede? Secondo me chi appartiene alla nazionale appartiene anche alla regionale, invece non include quella regionale, quindi cosa succede? Che noi a livello nazionale possiamo lavorare, però a livello regionale no. Non lo so, già. Per me guarda, facciano come vogliono, ti ripeto. Io problemi non me ne metto, e dove arrivo faccio, dove non arrivo mi fermo, e quando ne ho voglia vado, quando ne ho voglia sono lì, cioè non mi metto assolutamente problemi, vedano loro, fanno, disfano e io ti ripeto, non ho niente da obiettare, niente da dire, sì quando le cose vanno bene. Vabbè Giuseppe, cosa c'entra quello? Ma uno deve avere le cose chiare. Io questi problemi me li metto perché se mi trovo in una situazione poi non so come comportarmi, quindi io devo avere le cose chiare. Se io sono autista lì, c'ho la responsabilità, succede qualche cosa, io non è che posso dire prendo e parto, no. Adesso è diverso. E io ho una ragione in più allora per organizzarci e parlarne con Franco, cioè che si fa come la sera una riunione e si chiariscono le cose in maniera che tutti abbiamo le idee chiare. È sempre una cosa, una volta eravamo in sede. Questo tipo è partito, già ha tagliato la strada, ha una macchina che sta facendo manovra, gli è andato dietro, lì nello spazio che c'è dove mettiamo le ambulanze, è partito con questa moto a razzo. Io sento solo poi canta un zocco, siamo usciti correndo, io gli ho detto prendete subito l'ambulanza, io sono uscito a piedi, siamo andati col borsone, ho visto il tipo che si era spaccato la mano, si è sbattuto la macchina, e si è spaccata tutta la mano, io ho cominciato a medicarlo insieme con Luciano, mi pare che c'era. Poi l'abbiamo caricato sull'ambulanza, abbiamo chiamato il 118 e ho detto no, aspettate lì, tenetelo sotto controllo che stiamo arrivando noi. E beh, come la papa è pronta. Quando sono arrivati loro era già tutto fasciato e fatto. E questo è... Fortuna non si è fatto più male di tanto, la moto si è rotta solo la manopola del freno e un po' graffiata sotto, ma col colpo che ha preso pensavo un becchiccio. Eh beh, magari il coso vi ha anche ingannato un po' il rumore, però meglio quando le cose finiscono sempre bene. Io ero grido io, meglio per lui, ha detto che gli ha pinzato, che ha visto la macchina all'ultimo momento, ha afferrato, gli ha pinzato la moto ed è caduto quasi da fermo. Ehi, cavolo, andiamo bene. Però ha sbattuto la macchina. Ah, ecco, se no il colpo, oia. Era fermo perché ha usato i freni sulla macchina. Quelli sono i più efficaci. Ed era un Ducati. Ma tira da lì da fatto. Cioè c'era già uno che faceva manovra, gli stavo facendo la retromarcia, lui gli è passato dietro sparato. Ha messo in moto, wow, si è marciato sparato, quello ha frenato di colpo perché se lo prendeva. Eh beh certo, cazzo, figurati. Se l'aveva preso bene, tranquillo che lo trovavate qualche centinaio di metri più avanti. E gente è pazza guidata la moto, che non riesco a capire. Io oggi mi sono fatto una passeggiata tranquillo, ho fatto girare un po' il motore, così, ho fatto una tiratina, poi ho mollato, ho fatto un giro a Sassari, così sono salito in piazza a vedere se c'erano le mascherine e cose, ho visto che c'erano tutti quelli che vedono i palloncini, eccetera, eccetera. E ho telefonato a Viana, dai, preparalo che già ci sono, perché magari fa la cosa che arrivi tutto con questa maschera e poi non vedi più. Beh, quello è più brutto. Ma non c'era, ti dico la verità, non c'era molto ambiente, perché hanno fatto, hanno mischiato il sacro col profano, c'era questa manifestazione delle donne, che è tanto di cappello, però era mischiata a queste mascherine che non si ricomprendeva nulla. Quello è normale, io ci sono sempre in mezzo, quelle sono come il prezzemolo. I bambini non avevano lo spazio per girare, fare come facevano gli altri anni. Gli altri anni c'erano dei ragazzi che si destreggiano a costruire degli attrezzi tipo antichi, dei giochi antichi, e giocavano con questi, gli facevano provare i trampoli, tutte queste cose qua fatte manualmente. E come a Porto Torres, quando siamo scesi, sarà qualche settimana fa, c'erano dei tipi, anche una tipa sui trampoli, c'erano quelli che facevano tutti i giochi con i palloncini, gente che faceva i tatuaggi sulle guance dei bambini, c'era un pochino di cosa. Invece stamattina solo quelle bancarelle, bancarelle con LP 45 giri a quanto ne vuoi. Ne lo so, quando va a cerco oggi quanto ne abbiamo? Oggi quanto è? 16, così è lì. Allora è ogni 16 del mese che ci sono. Oppure non so come sia questa cosa, perché a Sassari l'ultima settimana del mese che c'erano in Piazza dei Segni ce n'erano un bel, quello lì hanno fatto male a toglierlo, perché li hanno sparpagliati un po' in Piazza Tola, un po' di chi, un po' di chi dà e non vanno nessuno. Prima in Piazza dei Segni erano tutti insieme, no? E c'erano anche le moto d'epoca, tante cose belle da vedere. C'era in lui quella moto della Lambretta, lui, te la ricordi? Eia, quella fina fina. Quella lì, poi c'era la Capri, c'era il Guzzi, quello che ha il volano, che sembra un macino, con le marce, invece che nel manubrio c'aveva le marce come la macchina a fianco. è roba antica. Ma è sempre bello vederle, già, è sempre bello vederle. Però ti ripeto, va bene che giù c'era solo quello, poi per il resto era una disperazione, era tutto chiuso. Vabbè, lo so, quello lì sempre dipende dal sindaco se dà il permesso o no dell'apertura, quello lì non dipende mai dai negozianti, ma i negozianti aprirebbero, ma bisogna avere la giunta comunale cosa ha deciso. Beh certo, poi c'era questo bel venticello che sicuramente mi ha anche fregato, perché sto sempre starnutendo, e ti dico che c'era quelle, non era forte come vento, però era freddo, ti dico veramente freddo. Sei stato tramontato. Sì, tramontana, perché io quando ne sono uscito dalla macchina ho detto a Sassari, ho detto questo freddo e questo venticello non c'era. Vabbè, lì c'è il posto di mare, c'è sempre più umidità e cose. Ma diciamo che adesso la prossima domenica io non avevo calcolato che dovevo portarla in piazza. Casino, guarda, adesso a Berama ha dato la parola e la faccio, cosa devo fare. Però domenica non avevo calcolato che, come si dice, che devo portare a Marcolino in piazza. Adesso se posso vado, adesso vediamo un po', là. Non è che magari se uno non può andare, pazienza, Mino, è che magari avvisi qualche giorno prima e dici guarda che ho questo impegno e ascolto. No, ma io ho dato la disponibilità, non è che c'è il turno, io ho dato la disponibilità di domenica, però non è detto che per forza devo andare da questa domenica, capito? Certo. No, invece io per me, per questi tre giorni l'ha proprio scritto, mi hai capito? Perché ha detto cominciamo già a cosa, a fare pratica di qualcosa, se no veramente non riusciamo più. Gappa gappa. Vabbè. Vai, vai, tranquillo. Tranquillo, insomma. Così portiamo qualche panino, perché poi guarda, è tempo di rientrare qui, lavarsi e annanna. Vabbè, già ci sono tutti quei paninari vicino, c'è Tore, c'è questo, un paio d'attore, via, te lo mangi il callo a me. Infatti, e poi anche, dico io, anche se capita che sono lì, tanto non è che stai zappandomi, usato e chi vi ho buttato sul divano. Beh, se quando chiamano è così, se quando ti chiamano, poi magari ti fanno fare 3-4 servizi tutti uno dopo l'altro, se sei in servizio continui a farli. Certo, e poi arrivi al punto che non rispondi manco più al telefono. Gappa gappa. Vedi, mica mi ne so candente, lo intendi? Via. A volte penso ci siamo impegolati. Infatti, mi lo sapevo mica, quindi dove andare a sbatterci la testa. Che gappa. Ci avevamo tutto il tempo libero. Bravo. Vabbè, io già una vita che lo faccio, ma un po' mi ero staccato, dico la verità, non mi piacevano alcune cose, mi ero staccato per quello. Ma adesso la cosa mi va meglio, dai, mi va, con Franco mi piace. Sì, poi sta facendo visto le cose, si sta interessando, è quasi sempre lì, e già va bene. Diciamo che è più presente. E beh, l'altro abitava a Sorcio, cavolo, ogni volta stare a viaggiare e cose, un po' gli viene male. La mattina comunque già c'era sempre anche lui, Va bene, però calcola anche che la mattina la gente lavora, più che altro la presenza sarebbe dovuta essere la sera, perché bene o male stai in mezzo alla gente, senti se ci sono problemi, senti se ci sono dei progressi, senti se la cosa sta girando bene, ma la mattina lì chi ci va già? Infatti, ci vanno solo le persone che non hanno lavoro e che non sanno cosa fare, o Luciano magari che è libero magari qualche mattina, perché gli danno il riposo, fa, non so come sia, però c'ha dei riposi settimanali. Infatti, può essere anche così, però cioè, ciò non toglie che cioè, la sera uno che ha che ricopre un ruolo del genere deve essere presente. Vabbè, prima c'era Giancarlo che lui non lavorava, era tutto preciso, sempre lì onnipresente. Vedi, ma così dico, se uno non lavora, dico, per starmene buttato da una parte e vado lì e mi tengo impegnato, mi hai capito? Anche se, ti ripeto, uno se sta lavorando, dico, prima è lavoro e dopo viene, quel coso lì viene in seconda battuta. Però non ti dico, ti ripeto, tutto il giorno, ma le ore che ci deve stare, una persona ci deve stare, ripeto, una persona che ricopre quel ruolo lì. E lui era praticamente in cassa integrazione, è stato 10 anni in mobilità, mi pare, cose del genere, gli davano uno stipendio quasi, quindi Gaverufasia va a travagliare. Se lavorava glielo toglievano, quindi lui diceva, se trovo, me venga, ma se non trovo niente cosa faccio? Mi tengo quello che ho, tanto di fame non muoio. Beh certo, ci mancherebbe altro, finché così già va bene. E se sei in cassa integrazione o con questo cavolo di ammortizzatori sociali che ti danno, ci può anche stare, mi hai capito? Solo che poi, dopo che passano 10 anni, Giuseppe si trovi in salita. Infatti io è quello che dico, cioè dare anima e cuore a quel coso lì, se ti porta qualcosa in tasca, ci può anche stare, però io prima avrei pensato a me, poi... Comunque lui se la prendeva anche troppo a cuore nelle cose, si incazzava, si pestava, doveva riuscire a fare quello, poi c'era molta... Prima c'era molta severità, quello che dicevano lui e Agostino era legge e basta, se non ti andava bene la porterà quella e te l'andava. Vedi, però in un'associazione, cioè dove fai volontariato, perlomeno certe cose non devono esistere, perché finché mi paghi tanto quanto, ci posso anche stare, però poi... cioè sino a un certo punto poi le altre cose... Però insomma, allora era un corpo paramilitare, deciso, e quindi ragionavano in questa maniera. E ce n'è stata lì gente, quando eravamo a Latte Dolce, ti puoi immaginare che tipo di persone venivano, però si comportavano sempre bene, con chi non si comportava bene fuori. Poi chi se ne andava da Ciso c'era la legge, che chi se ne andava non rientrava più. Arrivati a un certo punto è anche giusto. Tu te ne andavi, avevi messo, non ti potevi scrivere più nessun gruppo ucciso. Quello mi sembra anche corretto, perché cioè non è che puoi stare, cioè non puoi fare una palla da biliardo e che vai e viene. Lo so, ma c'è stata gente che magari è stata trasportata, per dire, Luciano Caledu è stato trasportato a Ciso di Porto Torres da un'altra, io ci andiamo a Porto Torres, io ho detto Lucia non stai lavorando, non stai studiando, non è di una bala benzina, devi stare sempre piangendo e piena di dinara, fatti i calcoli. No, io me ne vado là, capisci, sta meglio. Poi Giancarlo con i Porto Torres una volta li aveva trovati, più di una volta li aveva trovati facendo spuntini di notte, e allora la cosa non è piaciuta più e si recluta. E non lo vogliamo più a Sassari, ho fatto di tutto io per farlo rientrare, ci sono riuscito, però dopo che io sono rientrato, per la strada della divisa nessuno si è interessato, compreso lui, ma glielo metto in faccia, nessuno si è interessato, adesso che ti ho fatto entrare tu non è che fai quello che ho fatto io per te, non è che mi aspetti molto, però io mi sono comportato in una certa maniera, anche tu dovresti essere un po', te l'ho detto chiaro detto ne facciami, non è che, ma io gliel'ho detto, ma qua, ma là, no, no, Lucia, non è come ti dici tu. Beh certo, il discorso è che cioè una mano lava l'altra, mi. Se tu fai un piacere a me io lo devo fare a te, cioè lì non ci piove. Ma tu devi vedere con quanta gente ho messo scontrato per farla entrare. C'era gente che proprio non lo voleva, la legge uguale per tutti, ma allora tu Luciano era ragazzo, andava bene, era simpatico, cioè aveva tutte le cose. Poi adesso c'è quello che ha, quindi a me mi interessava averlo vicino a co. Beh, tanto fatto che poi abbiamo fatto una riunione e cose l'hanno riaccettato, però proprio a livello di sordina. Beh certo. Invece quando l'ha accettato il problema della divisa, nada de nada, ma mi aveva giudito, io non glielo mando a dire, no Giuseppe, io quando la sento la cosa la sputo fuori. Beh, quella è la cosa più giusta che si possa fare, perché cioè tenersi quei gruppi, cioè quei nodi in gola non va bene, meglio sputarlo fuori subito. Dice, ti metti un giubbotto? No, io giubbotti degli altri non me ne metto. Oh, il tasso mi dice, guarda che c'è un servizio già, io senza divisa fosse, torno con la divisa, certo che sono torno con la divisa, io dovrei in divisa, punto, se no non ci vengo. Ed è giusto, ed è perfettamente giusto. E la puntina ce l'avevo anche per quello. Ma soprattutto per quello, perché anch'io ti ricordi cosa gli ho detto dal primo giorno, no? Sì, sì. Ma tu l'hai beccata subito, perché la tua misura è facile da trovare, capito Giuseppe? E la mia invece volevo ordinarla. Ma da ordinarla, i soldi li hanno tolto per altro e si potevano togliere per una divisa, anche per due divise. Beh, è solo una questione di calcoli che ci hanno fatto. Lo so, però quando ci vuole, ci vuole. Ma non ho detto, chi me lo fa fare spendere i soldi per una divisa, scarpe e cose, quando non mi fa, non mi copre tutti i giorni. C'è gente che mi copre tutti i giorni, prima farla da qui. E allora vadano quelli a fare i servizi. Sì, che poi si lamentano che sono sempre loro che li fanno, che li ho sentiti io, capito, parlala a me specialmente. Eia, ma ti tocca farli perché è la divisa, io non ne ho e il servizio non lo posso fare, quindi continua a farlo tutto. Io che ne so, tra le 9 dobbiamo andare in quel posto là. Cava, e già va bene, già andrà bene. Oggi facciamo i fidanzati. Già va bene, io mi troppo mangio, mi sistemo per bene, mi infilo tutte cose, al calduccio, mi guardo la televisione, oggi guarda, non muovo piedi fuori di casa. E vabbè dai, queste qui sono persone che mi fa anche piacere a me, poi c'è mia cognata a casa oggi, dormo qua, quindi andiamo tutti insieme, capito? Un paio di amici e di amiche, e siamo un bel po', siamo, saremo penso 5, 6, 7, una decina saremo. Ti sto dicendo già va bene, perché poi una bella chiacchierata, un coso, e poi la serata si passa. E poi facciamo l'amore. Capai, che romantico, domani cosa gli regali alla tua fidanzata, Alice? Un poco di babbanzone. Comunque avanti. Eia, ciao Pomponius, in punta di piedi sei entrato, E allora ciao, saluto di Giuseppe da Corrado. Io domani sarà Valdino, cos'è che passa in? Perché non ci vuole dove parte? Mi sento però è qua, è qua. Ciao, vai di portante muta, zio Pomponio, che sicuramente c'è qualcosa che non va qua. E è quello lì il rumore, lì. Ti fa un rumore, fa un... l'effetto ecco, deve metto accendere. Metto ecco, no, l'effetto ecco lì. Dice, tu gli aspetta, ti ascolta. Sembra la parte... partenza ad un elicottero. E appunto, quei vogliono di chi si motto di lei. Mi dicevo pensato fosse qualche moto. No, sembrava come il coso di una di quelle ventole, no, che parla. Oh, e poi prende sempre più giri. Esagerato. Ah, è vero, se c'è un fischio già. Che si staccavano sempre dai potenziometri. bisogna valere sempre a saldarli. Poi abbiamo cominciato a fare le modifiche, per Paolo li avevamo modificati, li avevamo messi più grossi, io lo stesso li avevo cambiati e cominciava già andare meglio. Poi come hanno fatto il Proxer, l'hanno modificato e adesso va alla grande. Sì, sì, va bene, hai voglia. Come microfono, guarda, non ti dico una cannonata, se no fa troppo rumore. E una fucilata, dai, dai. Ma gappa. No, no, va bene, io ho voglia. E anche per il polso, per il microfono, pompa parecchio come amplificazione. Va, sì, sì, sarà per tutti gli apparecchi. Che si adatta, però nella 48 è una cosa particolare. Vabbè, dopo io ho piazzato l'Intercat 340, quello omologato, e l'ho modificato io. Già con l'M800 pompa bombe, figura che se li metto quello. Asco, ma gli hai messo l'attacco normale adesso del microfono? L'Intercat? Non c'è l'attacco di quelli a 5 punte. Con la 5 c'è. Mamma mia, c'è un bambino, va a 4 direttamente, così almeno ci puoi adattare tutto. Mi fa l'attacco dell'ala e ci puoi attaccare direttamente il microfono che ti arriva con l'attacco dell'ala 48. Niente, l'uomo come lo dice, non c'ho mica lo schema per farlo così, no, veloce. No, quando arriva già me lo modifico io, metto lo spinotto o a 5 o a 4, adesso vediamo. Allora ti faccio queste connessioni nel 2009, più in pratica ci va la ricezione che non c'è, e quindi posso attaccare qualsiasi microfono e va bene lo stesso. Forse io ti fai in sabro lunga, quella che parte a 5 e poi va a 4. Sì, non casina la vita così, no? Faccio un cambio spino da 4 e basta. Lo faccio altro. Vela lì, avanti Giuseppe. Eia, ascoltami questa amplificazione, se così va bene, e vedere un pochino cosa, se è uguale a poco fa, se ha peggiorato. Aumenta. È brutta? No. Antonio? È perfetto la modulazione, 5 perfetto. Chiara. Dai, allora lo lascio così, gli metto una goccetta e lo provo così. Hai così e poi vado così, ce l'ha quella. Allora, l'unico difetto che c'è con il microfono adesso è che si muove la rotellina. Sì, vabbè, non è un problema per quello, basta lasciargli l'apparato nella cosa, la rotellina non si muove più, non ti preoccupare. Gli metti l'altra che lo lasci così. Infatti, cioè, quando uno trova la giusta modulazione, cioè la giusta modulazione, è inutile stare lì di nuovo, abbassa, prova, solleva e coso. Così, se voi mi dite che va bene, anche Diego va bene. E allora vedi, un goccetto d'attacco è dietro e pazienza, e che si deve fare? Invece, peggio è come quello qui in macchina, che stamattina sono andato a modulare e avevo l'eco a 8. No, io sai cosa bisogna fare, tu la rotellina l'attacco e metterlo proprio nel potenziometro, di modo che non si muova, perché io sulla rotellina gliel'ho messo e non ho concluso nulla. Si potrebbe fare anche così, anche perché stamattina mi hanno detto, ma in occhio non si comprende proprio nulla, ma cosa se mi senti? E io guardo e ho detto, ma non mi senti? E poi mi è venuto il dubbio, giro il microfono, cade, avevo l'eco a manettone. Quello che stavo imparando con il produttore. No, negativo, con Sattari, però avevo la cosa, la Minox, e casa sta pompando a quanto pare casa la grande. Bene. Cappa, è quella che ha la molla, Mimi, quella specie di spiralina a centro. Ma tu ti hai preso quello? Eia, però casa sta sparando, che è una meraviglia. Te l'ho detto, è l'unica antenna corta che io conosco che vada bene, tranne quelle caricate, ma ce ne sono poche che valgono, è come quella. Comunque, visto già che la cosa, la soddisfazione di non prenderla da internet ce l'ho avuta, e se ti dico quanto l'ho pagata ti metti a ridere. Ma lo so. 39 euro. Pagata. Vabbè. Io già ce l'ho autocostruita, non me la devo comparare. Va bene, ma per chi non ce l'ha già va bene che cosa si riesce a trovarla qui. Così almeno grazie, quando ci passo cazzo gliela infilo in un orecchio e gliela faccio uscire nell'altro. L'ho pagata. Vabbè, si sa che qua se non fa così, Giuseppe, è inutile. Io ti ho detto, se ce ne c'era lui subito un conto, se non ce l'hanno non ordinare mai, perché tanto l'ha presa per i fondelli. Hai capito, Antonio? 2 mesi per aspettare un'antenna che poi non si sa manco se ti hanno ordinato. Se lo faceva anche tu, io questo cosa qua, non ti preoccupare. Così la roba non arrivava mai, quindi a un certo punto poi io ho detto, bene, adesso mi arrangio, me ne firmo. E pigliava da qualcun altro le antenne. E così facevo. Una volta fusa, la compravo oppure la mucchio di quel periodo. No, io tramite alcuni agganci sono riuscito a prenderla a Cagliari. E a quanto pare questo negozio c'ha un bel in roba, ma un bel. Meglio così. Lo dici, ne va a Cagliari a comprare la roba, gira, posso andare su internet. Ci facciamo un viaggio a Cagliari, si divide la benzina, se va lì si compra. Ma guarda che in fondo, se ti fidi non è nemmeno sbagliato, mio Antone. Se ti fai un giro di conti, e a parte il coso, le spese che ci vogliono per inviartela la cosa e tutto quanto, ma almeno lì quando vai nel negozio la roba la tocchi con mano. Quello sì, è una cosa logica. E così bisogna fare, oppure aspettare quando c'è la fiera, salire su con una macchina e andare da metteria alla fiera, come fanno tutti. Vanno con la macchina, si riempie il cofano, poi si tornano a casa e hanno fatto l'affare. E andiamo con 2 station wagon, vero Giuseppe? Lo sai che cosa mi ha risposto già quello lì quando l'ho chiamato al telefono, no? E gli ha detto se aveva la cosa, la Mino, la PLC Mino. Eh? E mi ha detto, che problema c'è? Ma io, Giuseppe, preferivo l'altra, quella senza molletta. Sparava di più. Te la ricordi la Minox tu? E io già la ricordo. Quella senza la molla è la migliore secondo me, è vero? Oh Gianni? Sì. Non tralasciamo il fatto che io ho anche l'altro stilo, Lo so. Ma dico... Ma si dice se ne buscano, si può sempre fare. Io l'avevo presa senza molla e andava di più di quella di coso. Ma sarà una cosa irrisoria, sarà Santiago in più. Ma non lo so già, ti dico la verità, io ho fatto solo alcune prove così, e con chi ho parlato mi hanno detto radio Super 5 e poi mi hanno dato anche dei segnali interessanti. Porto Torres si è chiesto da segnale. No, negativo, a Porto Torres no, però ho chiesto da... rientrando da Porto Torres a qui. Beh, che se viene chiamato. Allora, il più basso che mi hanno dato era Santiago 7 e Radio Super 5. Sì, ma spara bene quell'antenna, te l'ho detto. Sono antenne piccole che vanno bene. Ma sono delle poche, perché poi ne metti altre e non rendono nulla. Lo so, però la cosa ideale era che non dovevo staccare la basetta dalla cappotta della macchina, hai capito? Per piazzarne un'altra, perché con quella lì in garage un bijou, entro, esco senza stare, ogni volta mi dovevo stressare a togliere l'antenna perché non entravo. Adesso quella te la lasci fissa così. Eia, lei è sempre in macchina adesso, sulla cappotta. Appagato. Ti metti il bullone e via. Eia, quelle cose che mi devo adesso sistemare, mi con calma, perché prima... tu non sai cosa mi è successo. No? Cavolo. tavolo, piatto tutto, no, accendo il baracchino e il volume bassissimo, non riuscivo a cavarmi i piedi, ho detto cos'è, cosa non è. Due giorni ci stavo perdendo la testa, sino a ieri che sono riuscito a prendere il microfono, no, come l'ho mosso appena appena parte il volume a coso, a manettone. E che cos'era? Il microfono, hai visto dove ci sono i fili che entrano? Lì ci doveva essere qualche interruzione, quindi ho dovuto staccare il microfono dalla macchina, portarlo a casa, l'ho dovuto aprire, ho dovuto tagliare tutto e farmi di nuovo tutte le saldature. Bella pazienza che vai. Se non mi funzionava già, allora era inutile aver comprato l'antenna. Se il microfono, secondo come lo toccavo il filo sotto, partiva il volume delle cose, no, dell'altoparlante. Secondo come lo prendevo si sentiva basso, basso, basso. Cappa, io voglio fare una prova da macchina a macchina, adesso con le antenne piccole, a vedere come ci sentiamo. Ma io penso abbastanza bene. Perché da casa ti sentono bene, bisogna vedere sempre da macchina a macchina. E quando capita proviamo a farla quella prova. Alessio. Se a quadro alto mettete uno a fianco all'altro e si vede la differenza che c'è. No, ma non è quella la cosa che voglio fare, voglio provare da macchina a macchina se ci sentiamo bene, capito, con le antenne piccole. Ah, lo puoi fare quando vuoi, quello non è un problema. Infatti è un coso, uno scrivito che mi è saltato, lo dico, se si sente bene dall'antenna di casa dovrebbe sentirsi anche dalla macchina. Se quella prova lì la passa, la lascia sempre piccola, buonanotte, non so con voi vi sente una mano, però se vuoi sentire bene, io sono sempre del parere che Giuseppe, per dire, all'entrata di Porto Torres dove mi sentiva con la piccola, con la grande mi intendi, da quando parto mi sento. Quello già è vero. No, io comunque ti sento, ma quando parti la prodotta verso in Sassari. E adesso c'ho la grande, ma dico con la piccolina, quella che ho autocostruito io, in mezzo ai palazzi non ti sente, poi come esci dai palazzi ti sento. Io ti ho sempre sentito perlomeno. Deve essere con la grande o la piccola, dipende. Ma comunque è un'antenna che fa bene, io ho copiato la misura da internet, ho guardato la misura dello stilo, ho fatto lo stilo a misura, c'era uno stilo buttato, ho guardato la misura dello stilo e ho fatto l'antenna. Tra l'altro, io non gli ho messo il pezzo finale, ma gli ho messo il pezzo più grosso, quindi viene anche più fatto. Hai fatto bene. Io mi ricordo una volta che una persona facendo una prova al quadrato nasceva su una diastema. Dice, cazzo, rovente! Oh, io nel bagagliaio ho ancora la cosa, la custodia dell'antenna con il filo e il coso e la chiavetta per le regolazioni, no, per le stazionarie. Adesso devo guardare nel libretto, voglio vedere quanto ottiene di potenza. Ma mi pare che sia 400 watt o 500, una cosa del genere. E già vanno bene, mi sarei accontentato anche della metà. Ma infatti, noi non usiamo potenze grosse, quindi vanno bene quelle antenne. Tu figurati che io sto scendo con i 4 watt del baracchino in macchina. Paga. E mi sentono lo stesso, figurati se ne metti 200. Sì, ma se, diciamo, se c'è un buon impianto ti ascoltano anche con 5 watt, 4 watt che usi, è già tutto. Ma io prima mi ricordo che con un watt e mezzo arrivavo al ghero. Eia, già è così, soltanto che adesso ci siamo messi in testa di sparare queste grandi cose e non riesco a capire il perché. Io in macchina già sono liscio, e che più liscio di me credo che non ci sia nessuno. Appagato. E vabbè, se vi dà un aiutino, ma che non sia di quelli grossi, un aiutino quando sei lontano, ma quando sei in città non hai bisogno. E Robo, un aiutino se lo trovo, però piccolo, un pensierino ce lo posso anche fare, ma andare a comprarne nuovo, manco per idea. Mi sa che non le stanno più facendo di 747, lo sai. E infatti vedo se riesco a trovare qualcosa di seconda mano, però che sia un affare, un pensierino magari ce lo posso anche fare. Io sono il pagamento, mi costa 55 euro di quelli nuovi. Se trovano 30 euro non li conveniamo a cadarlo. Vabbè, ma dico, gente che se ne vuole disfare, gente magari che se ne ha comprato uno più grosso e non sa cosa farne, può sempre capitare. E non c'è vero. Dico bene, Antone. Antone è come fantasmi, non lo se ne tanto sparisce. Antonello, pipistrello. Andà bene, mela. Mamma mia, cara. Eppure io mi sa che sono mezzo pizzicato di raffreddore. Sì. Davvero? Sì. Io ce l'ho qua davanti, Proxel, col Midland, con la LAN 48. Guarda, io qua ne ho un Proxel, due Proxel attaccato all'altro 48. Poi ho il 48, quello che mettevo in barra pesante. Hai voglia di microfoni? No, è il microfono da tavolo. No, sempre palmare. Quello da tavolo ci vuole per quello grande. Già avrà scusare se sto usando questo per adesso, poi domani quando divento ricco già glielo comprerò uno. Ehi. Ma. Io ce li ho tutti palmare perché mi piacevano di più. Posso tirare i fili tu come ti voglio, perché sono belli lunghi, belli morbidi. Oh, che bello! Oh, non parlarmi di filo, guarda che mi fai ricordare ieri, con col microfono della macchina. Eppure una cosa che non vorrei fare. Voglio provare nell'apparato di usi in macchina il Proxel, però quello normale. Il Proxel normale. Ma io penso che pompi di più quello lì perché c'ha il compressore. E che pompa di più quello che hai? Penso proprio di sì. Me l'hanno chiesto un Proxel normale, però io non lo do. Perché quello lì l'avevo anche modificato io e lo voglio così. Quello lì era con un'altra capsula, insomma, l'avevo modificato un po'. Vabbè. Però io in quello là già pompa, che è una meraviglia. E io l'avrei lasciato così, con quel microfono che spinge, guarda che va troppo bene. Per forza va un compressore interno, l'ho aperto, è stato modificato quello lì. E prendono praticamente la corrente dall'apparato senza avere batteria, funziona alimentato però senza batteria. Certo. E lasciagli quello, guarda, è perfetto per quell'apparecchio. Che cosa che vorrei fare è cambiare il filo, mettere quelli del Proxel, cazzo, quelli sono più morbidi. Sì. Il filo gliel'avrei cambiato anch'io, ti dico la verità. Me l'avrei salito a casa, con calma avrei iniziato prima da giù e poi a finire su. Con calma mi sarei messo un'oretta senza rompiscatole di nessuno in giro, chiuso bene come ho fatto io. Quando erano tutti quanti a nanna, ho preso, con calma mi sono messo un telo sopra il tavolo e poi mi sono fatto la tutto. Sì, bisogna che mi decida, però ho paura di aprirlo perché va troppo bene, ho paura che magari possa danno. A volte sai come sale, magari lo brucio, vai, dopo divento paranoico. E ti prende, non ce l'hai saldatore con la tappina fina. E ce l'ho. Mi devo mettere in testa di comprare una stazione saldante direttamente, perché quello che c'è è una saldatura così, dai. E allora, così almeno te lo fai, gli metti il coso, il filo morbido e vedrai come sei anche più comodo in macchina. Io lo stesso quello che ho in macchina è col filo morbido. Oh, ci arriva bene, non è che faccio fatica, però si rigidisce d'estate diventa morbido, quello di sicuramente, perché come scioglie, come scalda diventa morbido, ma d'inverno si rigidisce. E beh, normale col freddo. Invece questi qua, sia d'estate che d'inverno, sono sempre belli. Quello del Proxel è un amore. Io quando ho visto il microfono l'ho voluto subito provare, poi l'ho detto a Pierpaolo, poi Pierpaolo deve essere detto che andava bene, si è voluto prendere un altro, insomma, così è 747 lo stesso. Bisogna vedere anche se magari quelli giù a Cagliari ne hanno, Migia. Sì, li trattano quei microfoni, li trattano, ogni giorno li compravo a Cagliari. E allora, guarda, gli risparmiamo anche di spedizioni e di quanto c'è. E vabbè, dai, quello che lo metti in spedizione ce lo metti in benzina, ma se andiamo a gas, li spendiamo molto meno. Eia, ma dico, ma almeno caso uno si fa una passeggiata, si parte la mattina, se ne rientri dopo pranzo, ma almeno hai anche il coso di vedere, cioè di entrare in questo negozio, vedere, curiosare. Giuseppe, se capita, guarda, io ti prometto che se capita una giornata che ce l'abbiamo tutti e due insieme, prendiamo e partiamo. Perché guarda, da trovare è facilissimo, perché l'individuo ce l'ho e ci vuole poco. E da trovare, le faccio a pulire il Danton con l'indirizzo e via. Oh, in Viale Monastir, cade l'ingresso di Cagliari, cade non la sappiamo. E allora va bene, eh? Va bene. Che vai, cara? Non c'è problema, se capita, se coincide una giornata, io posso chiederla. Tu mi puoi dire quando la puoi chiedere e io la chiedo per una settimana prima, perché devo fare la richiesta. Eh beh, certo, sempre prima. Sempre prima, perché così si hanno più probabilità, perché anche da noi se chiedi oggi per domani è zero, eh. No, no, a meno che sia una cosa urgente non te ne danno. Io per dire, quando ho sposato Rattalino le avevo chiesto la giornata e non me ne ha dato. Figura, fate muove. Ascolta, ma il 17, che cos'è? Ma si fa il 17 marzo questa festa, non si fa? Cavolo, andiamo a cielo. Ma alla cosa dell'Italia, la liberazione dell'Italia. E beh, 150 anni dell'Unità d'Italia, non se ne capisce più niente, c'è chi dice che si lavora, c'è chi dice che no. Ma Germini ha detto che le scuole devono restare aperte, sta cominciando a rompere i catene, figurati se non ti fanno lavorare, Giuseppe. No, ma dico, è giusto per saperlo, perché magari non vai a lavorare invece lavorativa, vai a lavorare magari trovi chiuso. E bisogna formarsi. Poi c'è chi decide di chiudere, c'è chi decide, magari se tu vuoi chiudere, chiudi. Ma. Adesso vediamo, dagli da 7 marzo già ce ne vuole ancora, però sai, come dice il proverbio, chi ha tempo non aspetti il tempo. Pompo, sei rientrato? Antonello Pomponius, mi sa che ha mollato. Mamma mia. Chi è che ha fatto coccone? Cacca! Luca! Attenzione, Lucrezia! Vabbè, disgraziati! Buonasera a tutti, io sono Magliucco. Io. Non so anche i piedi, mamma mia, ma sono crepato. Sono crepato. Ti levate la dormita? No, so cos'è, che mi hanno invitato alla festa, no? E praticamente, niente, c'era da ballare, insomma, sta a ballare, poi adesso mi ritrovo gli alluci, hola. Vero, mi avrei più abituato. No, non vorrei, cioè, oddio, non vorrei che non sia niente di grave già, eh. Alluci viola. È un problema di circolazione, potrebbe essere. Diciamo con le scarpe che ce l'avevo, un po' mi toccavo, ma non più tanto, ecco. Forse magari ballando col piede, sai, il piede poi scivola verso avanti, no? E magari, non so, non sono accorto, era un po' che ci c'è un muro, ma comunque. Sì, le unghie, Viola. Ma stavi ballando. Ollullo. Chi si prova a guardare? Ciao Giuse, dimmi. Asco, ma non sarà la tinta delle scarpe. No, non mi fanno male proprio Giuse, assolutamente, mi fanno male. E cavolo, allora prova a fare una cosa. Mettiti sdraiato e le metti un pochino più su delle, diciamo, delle petto, le cose, le, i piedi. Ma non penso sia un problema di circolazione, assolutamente, perché allora, se è un problema di circolazione mi si fa tutto il piede viola, oppure tutta la vita viola, è solo l'alluce viola, dice l'unghia. E mi pare dove interrompere la circolazione. Se la circolazione interrompe quel punto, ti si fa quel punto così. Non è come dici tu. Comunque non dovrebbe essere quello. Sicuramente la scarpa era stretta e non circolava bene il sangue magari. Ma è la volta che ti è tolta. E cazzo, ieri già, come è passato, infatti mi fa male, capito? Io ho lavorato, ho collaborato, ho dato una mano. Praticamente era una festa di persone malate, dai, diciamo. Ho collaborato a offrire l'aranciata, insomma, queste cose qua da portare dare una mano, ecco. Purtroppo non si potevano alzare perché sono malati. Ho camminato, ho ballato e diciamo che. Allora, al dito non c'è niente. Ok, è l'unghia che viola, mi fa male. Il dito non ha nulla, il dito è normale, bello colorato, normale, come vivo, ecco. Un'unghia solo, tutti e due i piedi oppure solo di un piede? Tutti e due. E allora dipende dalle scarpe, non è possibile. Perché hanno lavorato molto, è caricato molto, ma non penso. Viola, è strano, non mi è mai successo. Non so, ma neanche a me è mai successo una cosa del genere. Praticamente sembra che l'unghia, vabbè già adesso mi fa male comunque, no? Però sembra che stia uscendo, ma non so, fa troppo male, là. Sono le scarpe sono un po' strette, mi stavano bene, di lusso, sempre una delle Nike, non le Nike famose, che uso io, non so, no, il piede non c'ha nulla, assolutamente, non è bello normale, non è che si avvio al piede, le altre dita non hanno niente, se no, se fosse stato un problema di circolazione, mi avrebbe preso anche gli altri le dita, Giuseppe, capito? Mi ripeto, il colore della scarpa è grigio, non può essere, poi con le scarpe non avevo colore, assolutamente. Non so, boh. Vediamo. Adesso vado dal medico, già utilizza. Beh, se vedi che persiste una cosa, poi ti fa vedere. Ma potrebbe essere se le scarpe strette in punta, magari è la circolazione, magari proprio in quel punto lì ti stringeva. E magari lavorando e facendo hai anche spostato di più il piede, quindi diciamo. E quindi si è andato alla festa di gente così, gente carosella. Sì, si mi hanno invitato gente che lavora lì, mi hanno collaborato, abbiamo pulito, no. A me la verità piacciono queste cose, solo che mi hanno fatto molta tenerezza Gianni, perché mamma mia, cosa avvea? Adesso c'è molta gente che sta peggio di noi, io domenica devo andare lo stesso alla messa che fa Don Gavino, a latte dolce, e dobbiamo andare a prendere le persone malate perché c'è la festa dei malati e andiamo a prendere. Ma tante volte ho lavorato anche insieme a Idao, li abbiamo portati ai concerti, eccetera, eccetera, ma tu devi vedere che affettuosi che sono, si abbracciano, mi fanno scendere le lacrime a me, ci credi. Non posso immaginare, allora ieri, cioè mi fanno male queste cose, adesso non è per rifiutare le persone così, però, sai, stavo passando, sono passato più volte aranciata, Coca-Cola, addirittura anche una puntina di spumante, perché mi hanno detto chi lavora lì, no? Chi di competenza. E dopo un po' questa qua voleva ballare con me, ma mi sono rifiutato, ma non perché era in quelle condizioni lì, ma mi prendono male queste cose già, capito? Sono visto male, ecco. Chissà come si è sentita lì, poveraccia. Vabbè, no, lì era così, tranquilla, non è che ci mancherebbe. Solo che mi sono trovato male. Un attimo, è successo qua? Come si sente? Roger. Aspetta, non se non va più. Adesso si sente già. Adesso è più forte, prima era più basso. Bisogna conviverci con questa gente. Se tu vedi lo spettacolo che fanno, Giuseppe, tu non hai mai partecipato, però io ho fatto servizio al palazzetto dello sport, dove ci sono tutte le persone malate che fanno ginnastica, che giocano a pallacanestro, ci sono i che fanno saltare l'ostacolo, ma devi vedere con che difficoltà saltare. Diciamo pochi centimetri e cose, i down, e poi ci fanno gli applausi da soli per applaudirli, guarda, un'emozione che a me mi tocca il cuore, la verità. Cava, cava, cava, bianco per me un attimo. Cava, ne avrei l'occasione di vedere. Io ho lavorato molto con questa gente qui e... diciamo, riconosco, sentono molto la musica, mi piace molto cantare, fare, ballare. Sì, sì, no, va, ripeto, mi sono divertito troppo, questo volevo dire. E poi mi sono anche fregato perché avevo mal di testa, no? Prima di arrivare lì, mi sono preso una pastiglia. Ma dopo mi sono messo a bere spumante veloce, buono, E poi un po', mi scatto un po', mi sono... sono cicciato un po', dai. C'è un'altra camera che mi gira qua, una parte all'altra. Ha fatto lì al cuore mancolato? No. No. Io fatti di... non le conce. Sta pagato. No, pensavo che fosse all'oratorio, perché lì a volte faceva la Befana, tutte queste cose qua. Allora, la bacheca, c'è... Giovanni Giorgio anche c'era. Ci metto un grande lì, io Giovanni, quanti la lontano, la buccia facciamo, mi dice, stava la bottiglia, no? E sapevo che hai problemi. Ma sta arrivando, Giovanni, sta arrivando, anzi ti metto la benzina. Si va a cuppare i gravi Dubai, che ti ammazza. Lasciate. Grazie, guarda, è forte, questo è un di bene, qualunque bravo, non mi dicevate c'era, cazzo, tu mi sei affiancato di lì, già qua sono malato, stesso con le mani, gialle le sigarette, gialle, Dio mio, marron, quello della brice marron, c'è presente, così, un infiamo di bici un altro, me la ammazza, il musico fuggito. Adesso te la racconto una. Una volta ci hanno chiamato d'urgenza San Camillo. Questo malato aveva buttato dalle scale una tipa in carrozzina. Era malato anche quello della spinta, poveraccio, però quella lì è caduta con la carrozzina dalle scale, si è tutta fatta male, cosa? L'abbiamo portato d'urgenza all'ospedale. Poi siamo ritornati a San Camillo per farci dare il foglio della chiamata, no? Perché nell'urgenza non ci abbiamo potuto far dare il foglio, siamo ritornati dopo. E c'era questa ragazza che era molto carina, però era senza un braccio. E praticamente si è avvicinata a me, mi ha detto che mi voleva far visitare, gli ho detto, fate visitare San Camillo, non l'ho mai visto. E questa ragazza si è offerta lì a farmi vedere San Camillo. Io abbiamo visto tutte le camere, mentre la vedi quella che c'è attaccata al muro, quella lì si è buttata dalla finestra una volta e si è rotta la gamba e cosa, però non si è fatta altro, ha avuto una fortuna sfasciata e sta dal giorno, sta sempre così rannicchiata nel muro lì a fianco al muro con la coperta sopra e era così, no? Fatto sta che poi dopo che è finito lei mi ha detto ci vieni a trovarmi di nuovo, e io ho detto certo, se capita ci faccio un salto quando capito di servizio. No, io voglio che tu venga sempre a trovarmi, ti voglio bene, questo e quell'altro. Lui si è attaccata a Luca, ora non sapevo più cosa fare. L'hanno dovuta prendere l'infermiere e staccarmela perché non mi voleva fare più andare. Così è successo a me in psichiatria, poi ci ha ricoverato mio zio, e c'è una nostra ragazza che aveva all'epoca 18 anni, una ragazza, forse una ragazza un po' grossa, di Sendoli. E praticamente cosa è successo? Che era lì, ha avuto problemi di salute. Uno ha iniziato che voleva questo, voleva quello, voleva quell'altro, sai come sono malato, queste persone escono di testa. Cazzo prende, mi si attacca, il braccio mi vuole più lasciare, voglio venire con te, portami via, bimbo, bimbo. Dico, boh, ciao, mi fatta, Guarda, mi ha veramente scosso questa cosa qua. Infatti, ho chiamato, come si chiama? Chiamato l'infermiera per farmela staccare, non mi voleva più mollare già. Pensavo che si è abbracciata, mi stava tirando, io devo prendere l'ascensore, guarda, mi si è attaccata al collo, ti voglio bene, e invece poi, ma sono bastate una serata così che abbiamo passato facendomi vedere le diverse stanze, cose, ho detto qua ci sono quelli che sono, vedi io spendere, sono sano, mi manca solo il braccio perché ho avuto un incidente e cose, però sono sano, e mi ha detto lo vedo che sei sana, sei tranquilla, non è che purtroppo ho detto queste cose succedono, dice ma a me non mi piace stare qua, io vorrei uscire, vorrei sposarmi, vorrei trovare qualcuno che mi vuole bene. E poi che ha avuto questa crisi, insomma una crisi allucinante, mi si è attaccata a scuola, era una crisi nervosa, boh, mi si è attaccata addosso, mi abbracciava, col braccio vabbè, che gli rimaneva, poveraccio. Però non sono più tornato, non ci sono più voluto andare a San Camillo, mi ha fatto qua così male, sono stato male per un mese di giorni. Ti credo, lo stesso questa qua non va più lasciare, portami via, non ci voglio rimanere qua. Sembrava una ragazza che era praticamente, come si dice, non sembrava di qua, messa male, ecco. Cioè capiva dov'era. Poi ce n'era un altro lo stesso che faceva Gesù Cristo, la barba lunga lunga lunga, camminava sempre pregando, poi veniva letto con il cazzo, la braccia aperta pregando. C'era Gesù Cristo veramente, un immenso d'uomo, se ti uscita di testa va lì. Uno lo stesso, un altro, l'ho fermato, io se mi ricordo questo tipo piccoletto, già un uomo anziano, grande, grandetto dettanno, piccoletto, uno più vicino, fino lì, fino. Cazzo, entra dentro, no? Praticamente la camera dove c'era mio zio risultava dove c'era il bagno. Cazzo, non dicevo i pantaloni, ma i pantaloni tutti abbassati, tutto cagato era. A noi ce ne sia stata una più brutta ancora. Ci avevamo a Manuela piccolina. E dovevamo andare lì in reparto psichiatrico a trovare una parente. Io gli ho detto, Lidia, tu rimani fuori nella panchina che c'è, visto quella panchina che c'è lì per sederti, e io vado dentro a trovare. Se non si è attaccata Liliana a questa tipa dicendo che il suo figlio gli voleva prendere il bambino. Comunque ce l'hai a te fare il gambo già. Questo qua era tutto cagato, a parte che non potevo neanche uscire lì, cioè non puoi fumare dentro l'ospedale, solo il bagno fumavano loro. Dici tu, come trovo a baciarli, non so chiedendo, non so mai quello che cosa, avevo la cigaretta in bocca, tu gli vedi lì, la bovaraccia. Un periodo quando io lavoravo portavo le bibite, andavo anche al manicomio a consegnare quando c'era ancora l'ex manicomio. Un giorno mi hanno fatto diventare scemo, c'era mangiafuoco, questo qui che aveva paura avvicinarsi al camion per paura di cadere giù, si avvicinava e poi tornava indietro, come fanno le tartarughe quando le metti presi nel tavolo, che se ne ritornano indietro, così va zia Eddo, lo chiamavano mangiafuoco. E dicevo, tu vieni che ti trappasso la roba, perché mi aiutavano. Poi uno si avvicinava, una sigaretta, una sigaretta, l'altra, la cedina, io sono Albertusi, matto diventavi, ti giuro, poi non c'era nessuno che li controllava, tutti i pantaloni varavara, braghetta a bici, tutti li voti tutti a bici, guarda, trattati proprio male, male, male. Lo so già. Via, mi sono ripreso, mi son Giovanni Giorgio mi sta cercando, l'ho cercato io, mi affanculo, mi sono ripreso. Sud. No, no, no, no. Cazzo, lasciamo Giovannino, tu sei troppo bravo cantando. Solo che dove è troppo, capito? Proprio se me ne dimenticavo, perché già l'egretto, no? Già era un po' attuntivo, poi vai qua, vai là. Le faticate c'era sempre un sorvino lui. Giovanni era un bimbo, non me la dica più, e me intanto in chi. Infatti mi sono rimasti, non lo riempivo proprio a bocca. A metà glielo facevano. E la mia ancora mi dai, due bicchieri a metà. Non me la dica più. Poi una volta capito di cantare che hanno smontato tutto, la si è messa a bere. Solo che a metà e ti devi un boccione da buio. Sì, quando cazzo mi dà a regalo. Avanti, Giuseppe, sì, sì. Eia, eia, già c'è solo. Prenditela. Eia, e quindi, Lucchetto, siamo andati alla grande. No, non ci vuole andare, perché non ha sentito, non... molte volte non è voluto andare da nessuna parte, Giuseppe, non... è tutto, non la riguarda, non... E poi ho deciso, questo qua, dico, ma si la vai io e vieni, bumba, bimbo. E poi alla fine, poi vabbè, va. Ma sta a prendere, mi sono cambiato e sono andato. Addirittura la tipa io stavo bevendo un vino buono, è fatto, non so da chi, comunque qua dal posto. E sta bicchiere, allora, cioè, un bicchiere in mano, me ne passa vicino, la fanno, quello lì stava male, stava macchiato. Adesso non so se ne esce. Sì, già ne esce, già ne esce. Cioè, ma è toccato già attento, allucinante, va. Eccoci. Avanti. Buonasera, Massimiliano da questa, K. Ui, Massimiliano, ebbene, ecco quanti andas. Già da medio sta. Caro, Gaia. E a Gaia, scusa, sempre già da medio. San Miglio. Sì, positivo, sta più bene. Sì, così, da. Avanti, Giuseppe. Cava. Ciao, Massimiliano. Salutone, cordialità, come sempre, un bacio alla bimba. Allora, ciao, Giuseppe, buonasera, ben sentito. Ciao, anche a te, Luca, sentito una volta, il 3. Fene casino. No, siamo abbastanza tranquilli, parlando. Casino proprio non avevamo fatto, Massimiliano, dai. Casino nel senso che vi sentite solo voi in 40 canali. Vabbè, siamo la voce della frequenza. Gara. Già, sto usando un apparecchio nuovo, com'è di modulazione? Va bene. Ciao Massimiliano. Oh, già, le mani fanno che siamo scrivendo in diretto, però, sono molto strano, scrive proprio correttamente. Qui c'è da Gianni, Giovanni Giorgio, mi sembra strano che sia lui, scrive troppo corretto. Perché ti sembra strano? Ma non è che gatto sa salire che non sa guardare italiano, Tante volte si parla sassarese ma si sa parlare bene anche l'italiano, cosa c'è? Sta chattando con Giovanni Giorgio. Perché ieri ci sono diventati compagni di danza, è una festa. Gesù che... Ah, è troppo in gamba, eh. Ha saluto Giovanni, vino vino, lui. E prima ha iniziato lo spumante, no? E il goccio lì, no, la vita non è quella, la bicchiere è pieno, proprio goccio, no? Poi alla fine l'ha mollato perché dice, no, mi fa acidità di stomaco. Ah, guardato il vino. Lui la beve più zero, no, neanche scherzando, mi da ne beve quello. Adesso mi ha detto, ve ne fanno un'altra, d'estate però, fanno una rostita fuori dal cortile e ci sarà anche lui. Bene, trovando, non c'è un problema, infatti ci farò a fare quello che ho fatto. Capito? Allora, a mangiare e a bere. Allora, a me Giuseppe, buonasera. Buonasera a te Massimiliano, bella modulazione, complimenti. Positivo, ora un coso, è un presidente questo, un grande. È bella, bella prepotente, si sente che bella piena. Positivo, ora 4 watt e 8 modulati ne hai. Cazzo, sai con i picchi una cosa micidiale questa radio. E a te come ti sta arrivando già? Va bene, meglio, lo metto che va bene. Di lusso, Sassari Tramposa. chiama Gava. L'unica cosa che c'è è che lo smitter quando parlate non è giusto, capito? Nel senso che addirittura tu mi arrivi Giuseppe Santiago 2 e Gianni Santiago 3. Come si può regolare, Massimiliano? Bisogna registrarlo. Usi vicino un apparecchio affidabile e poi ce lo regoli come quello lì e fatto io. Sì, infatti è quello lì. Non interessava la modulazione se andava bene, perché io mi sto ascoltando in cuffia, sembra che sia buona, capito? Tutto qua, tutto qua. Niente, no. Ok, riprendi Luca. Meglio. Tanti per un controllino. Ehi, buonasera, 7351. La stazione Chico Spiri Gonzales, modulante la pantana, per un controllino, grazie. Scappa là, arrivi un Santiago di 4 qua, dai la patata, dove sei? Proprio a patata? Ehi, affermati un accento, dai! È patata! Scappa, dammi un controllo a me adesso, dai, come ti sta arrivando? Dai, Santiago di 7, una delle 4 e mezzo, c'è una delle 5, buona, eh! Cava. Questo è il magno, Riprende Massimiliano, vai per Pattana se lo ascolti da Vico. Io già lo ascolto da Pattana, ma lui non ascolta a me. Io sono piccolino, ho 4 watt e non mi può ascoltare lui. Ehi, Massimiliano, che ti ascolto. Saranno piccolini, c'è 4 watt, ma si fanno sentire. Non avete mai modulato voi. Sassari, cappa. Massimiliano, che tu hai Sassari? No, negativo, io un po' più di una Sassari, dai. Io sono tra i punti e ottava. Positivo, dai, stavo registrando l'apparato quando ero lanciato l'antenna. Dalla barra leggera e sono riuscito a provare un pochettino. E niente, ecco, io vi lascio. Grazie per il controllino. E vado su 5 che stavo provando con l'altro collega, capito? Fatevi una buona serata e alle prossime se coincide. Salutoni nuovamente, grazie. Su poi, Cappa, dai, ciao, ci sentiamo, buona serata anche a te, dai, avanti, Massimiliano. Ciao, buonasera, saluto le belli e buona continuazione, ci sentiamo, ciao, buona Gesù. Cava, l'amico di patata, così è. Ah, non mi sembrava patata, ma poi non lo so. Sì, Massimiliano, affermativo, patata, patata, tranquillo. Ok, va bene allora, dai. Io perché qua a me lo smitter non mi funziona, quindi non ti so pure neanche dare il segnale, hai capito? Sono qui alla compagna sua San Carolino, non so se sei pratico di Pattara. No, non sono pratico di Pattara, no, non lo faccio. Va bene, nuovamente con le scuole mi saluto per numero 5, salutoni alle prossime, ciao! Avanti, buon pollo, ci sei. Pollo? C'era Pompone poco fa, mollato, oppure l'abbiamo più sentito. Oh, Pompone l'abbiamo perso, e mannaggia. E deve essere che l'ha picchiato la moglie. Io lo so anche perché. Che ne hai fatti guai. No, per la domanda che gli hai fatto tu. Cosa gli regali per San Valentino domani? E allora giù potete. Avanzolo. L'ha detto Babanzolo, da voi se mi inteso. Io ho sentito come una padellata in testa, da voi, Ma ce ne danno a mangiare la notte? Ma io mangio di sicuro, questa notte mangio di sicuro. Io sento movimento in cucina, dopo le paletti, però speriamo bene. E chi fa ancora? Che dovizio però mangiare? Andare in ubi io. Io uguale già, quell'ora lì. Noi devo andare fuori, dobbiamo andare in pizzeria, quindi se abbiamo l'appuntamento alle 9 e prima non ci possiamo andare. Positivo, io che se non vado lì più o meno l'orario è quello là di cena. Anche io, no, presto non mangiamo mai, poi ci corichiamo anche tardi, siamo un po' sregolati. Anche noi siamo così un po' svirgolati. E vabbè, una questione di abitudine, io se non è mezzanotte e mezzo, l'una, così non mi go. Se sono coricato modulando già mi trovo prima, la verità, ma se sono in piedi al computer roba del genere sto si lattare. Confermo. Sabato poi se sto a casa non mi trattengo ancora di più. A volte anche alle 3 ho chiuso. Oh Massimiliano. Ma qualche volta anche alle 9:30 si è trovato Giuseppe parlando da solo. Anche Massimiliano, una volta. Cavaga. Ehi, cosa sono stravolto, sì? Magari dalle 3:30 alle 4. Tu non vedi solo che senti quando apre la portante, la molla che si è scoppiata nel naso. E si conferma. Veramente già. Grazie per il periodo che sono entrato io, Giuseppe. Facevamo questi questioni allucinanti dopo pranzo, però Gianni ogni tanto mancava. Il leccoso, il mattinazzo è più forte di lui, Una volta che lo avvolge Gianni è perso, non riesce più a divincolarsi dalle griffe del mattinazzo malaticcio. Che ti trovi? Avete parlato tu e Giuseppe sicuramente assieme, non li ho presi da uno e all'altro. Dicevo che Gianni una volta che entra nelle griffie del materasso a uscirne è un casotto. Magari, quello è vero. Aspetta che c'è anche un'altra persona che mi vuole salutare, un secondo, che io riprendo dall'altro apparato. Ciao Davide. Non è entrato ancora, lascio lo vieni. Mi è già compreso da lì. Io saluto Gabino e poi me la svigno a dare un colpo di mano. Sì. Ciao Giuseppe. Ciao Gabino. E beh, tutto bene? Già va bene, tutto bene. Beh, Maizzo, ma sono Giuseppe, saluti, no? Io mi offendo, Guarda, stavo guardando un film che finisce adesso, e sono entrato in cucina, ma signora, guarda che c'è Giuseppe, ma Gianni, adesso si sta sentendo già. Ciao, come stai? Bene, bene, ciao, che mi sto scherzando. Ma sai che è nato il giorno a casa di Leandro? Oh, e cosa ti ha detto? E mi ha detto che è passata anche da te. E stavo guardando un po' le sue collezioni, siccome sta avendo un po' la mania del modellismo, mi stava facendo vedere un po' di roba sua, e lui ce l'ha da tanto questa passione. Ehi, sì, e anche l'hi-fi, c'è la passione per l'hi-fi. Hi-fi Zulu, è la fotografia. In primis. Fotografia, sviluppo. Ma il fai proprio della macchina? No, per casa. Però di quelli antichi mi piacciono. Mi piacciono quegli strumenti antichi, piatti che costano un bel denaro. Oh già. Come senti a me? Sì che ti sento tutto a tratti. Lei un po' mi senti? Ti sento a tratti, Massimiliano. Stavo dicendo tutto proprio a tratti, così. A volte sì, a volte no. Il microfono, un po'? Probabilmente il microfono. Prova a mettere un po' di spalle PTT. E adesso mi senti bene, vedi un po', 1, 2, 3? Adesso sì. Positivo, eh. Io sto parlando da fuori, lui da dentro. Pagappa. E con che apparecchio sei tu? Io c'ho un Multicom, un 3230. Però non sto facendo bene, probabilmente questa ora di microfonia, forse è roba lasciata ferma, perché secondo me è il PTT che ti sta facendo uscire a tratti. Sicuramente il microfono, dai. K. Comunque adesso già ti sento, anche se sento un po' di cric sotto. Ora. Dai, sicuramente è vero. Sicuramente il microfono. Dai, riascolto la vetro, non mi freddo. La pagava. Sì, insomma, sempre armigente, Massimiliano. Ma tu abbandonato, hai capito? Non ti devi mettere l'antenna. Oia, ci sono altri problemi. Paga, poi vabbè. Oia. sono baracchino, diciamo, ma molta gente sta abbandonando, capito? No, che a periodi comunque. Infatti, infatti. Ma sa che tutti almeno i vecchi si mettono in testa di farsi sentire la sera, io ci sono ogni sera. Parlo con Postottore, parlo con chi c'è, però ogni sera ci sono, perlomeno quasi ogni sera, se non è che abbia qualcosa da fare, però normalmente ci sono sempre. Poi dipende anche dall'orario, capito? Quando rientri dal lavoro, magari non sai cosa fare, ti metti a parlare, c'è qualche dubbio. E la cosa da fare la ce l'ho, io faccio servizio a mulata, faccio tante altre cose, c'ho hobby, ma questo qui non l'ha abbandonato mai. Non l'ha abbandonato mai. Anche quando non c'era nessuno io lo accendevo sempre per vedere se sentivo qualcuno. Quindi, poi ho avuto il coso anche di ripristinare tutto, di fare riaprire la frequenza praticamente. E adesso non voglio abbandonarla perché è una cosa che a me piace. Diciamo che la passione non è di tutti, questo sì. Infatti ci vuole passione, ci vuole, come tutte le cose. E dunque parli anche in ambulanza. No, negativo, l'ambulanza c'è un'altra frequenza. È chiaro, chiaro. Vabbè, il microfono piaceva essere più in mano, là. Quando ci sono le radio, sì, ma momentaneamente le radio sono staccate. Stavo usando i telefoni più che altro, eh. Comunque la ambulanza usa 43 MHz. Sì, un'altra frequenza. Pagappa. E quindi Massimiliano ogni tanto lui prende e poi anche lui sa per periodi che non si fa sentire. E diciamo che d'estate che non c'è gente, ma d'inverno ci dovrebbero essere le ruote, c'è poco da fare, d'inverno uno sta più a casa, capito? D'estate io vabbè ce l'ho sempre perché ce l'ho anche in macchina, quindi giro con l'apparato acceso, eccetera. Già, ma comunque a periodo, perché anche d'estate, magari con l'estate c'è più propagazione, magari ti viene voglia più di parlare, di trattare. Ma guarda che adesso ha ripreso anche Porto Torres a parlare, ce ne sono 4-5 che parlano ogni notte, io se sento qualcuno parlo con loro, sto bene tranquillamente, ci facciamo una chiacchierata, sono persone in gamba, quindi a me che sia uno che sia l'altro a me non interessa, interessante che siano persone educate in gamba. Ci facciamo quattro risate e poi ogni tanto ne raccontiamo una. Parlare al baracchino bisogna comportarsi in una certa maniera, chiaramente, senza esuberare. Io molte volte quando sento certe cose che non. Molte volte voglio richiudere, chiudo. Volatile se per ascolto sta facendo. No, adesso no, adesso no, adesso l'ho staccato perché c'era una perdita sul muro, praticamente il cavo passava lì, l'ho dovuto togliere e momentaneamente ho staccato il muro. Quindi si è incasinato, c'è qualche tubazione? C'era ancora una montata che era rotta, dunque c'era i muri tutti impregnati d'acqua, un odore di muffa, dove sto facendo asciugare tutto, per cui la riparazione l'ho già fatta. Sempre casini, insomma, hai dovuto spostare tutto. E allora, poi un giorno e mezzo senza lavorare, a vedere quelli che stavano sistemando lì la perdita. E niente, ho preso una giornata e mezza. Ce la paga questa giornata? Non lo so, questo non me lo paga nessuno, però i lavori, bene o male, i muri e cose, magari c'è la sicurezza del palazzo, non lo paga. Vabbè. Allora. Avanti. Ciao Gianni. Sono solo ben affrontato, saluto il mio amico che non sono riuscito a decifrare di forse. Pensavo, sentito, in compagnia di Massimiliano, dell'amico Gavino che stava parlando. Anche di Giuseppe Tornado e di Luca da Sassari, dai, poi per chi vuole. Okay. Giuliano, abbiamo ascoltato con la primiera, mi sembra ci siamo già ascoltati precedentemente. Niente, ma un po' acceso, ho fatto una spazzolata sul canale, stato contento e mi sono fermato a cuore. Va bene, avanti, non si vuole. Abbaccia un po' la radio, Vanessa, che è troppo forte. Ok. Ok, così va meglio? Fa. Massimiliano, avanti. Massimiliano con la bambina. Don Gaia. Un attimino di bianco già, dai. Ci sentiamo dopo. Ehi, avanti Giuseppe. Cava. Saluto l'amico Sandro da Porto Torres, salutoni e ben sentito. Avanti Lupetto. Ciao Sandro, ben sentito anche a te, salutoni. Ciao anche Bambino, se mi ascolta. Sono qua, dai, mi prendete, io vi ascolto, se mi rilanciate già. Tra un po' vado a mangiare, c'ho fuoco, anzi, sono un quarto, vediamo un po', vado a mangiare anche al cane, a voi la pappa luna, a voi. State guardando, va. Dammi la pappa. Sì o no? Sì o no, dammi la pappa. Guarda, sto cane, ti manca la parola. Ripreso quello che va a dare una mano fuori. QRT per me, dai. Per carica batterie, magari, se ci si sente, ci si sente più tardi. Buon proseguimento a tutti e niente, dai, buona carica quando la batte. Ciao Giuseppe, ci sentiamo, dai. Magari domani mi faccio un salto là, dai. Se non ho nulla da fare mi faccio un salto. KK. E avanti Alessandro. Ok. Ciao Giuseppe, ho fatto un ritiro della carica, tutto lo procedere. Va bene, ciao Luca, mi hai ascoltato, là. Ok, tutto normale. Scusate un attimino di bianco per me, che c'è un piccolo inghippo. Riprendi già. Io riprendo. Ti è rimasto Luca e basta. Luca, cosa stai facendo? Sono al computer. Sono qua già, sono, dai, vado a mangiare il cane che mi sta aspettando. Non me la pappa, mi devo già. Ciao, Roberto. Massimiliano, dai, riprendo io, poi salutarvi tutti che sto andando, dai. Ci sentiamo, mi devo preparare che sto scendo. Allo sbidere. Buona serata a tutti, ciao Alessandro, ciao a tutti gli altri amici, Massimiliano, Luca, tutti quelli che sono in ascolto, doppio Luca, RT esecutivo, ciao a tutti. No, ciao Gianni, dai, buona serata, buona continuazione, ci sentiamo alle prossime, ciao. Avanti, che c'è Giuseppe, Luca, avanti. Ah, ciao già più tardi, anch'io ho lascio mi altro la mangiare del cane, ci sentiamo più tardi se ci siete. E se no la prossima, dai, ciao. Ciao Luca, anche a te, dai. Chi è che è rimasto qua? A Sandro, non so, è sparito. Allora, Giuseppe ha chiuso? Da mangiare. Senti, voilà. Ok, anche allora anche io, visto che non c'è più nessuno, rimango ancora a te. Ok, dai, ciao, buona serata. Ciao Massimiliano, a più tardi, dai, ciao. Ciao.